degli occhi tuoi non sol colore, ma sono belli più grandi del mare, pieni di luce, pieni di sole, non hanno pianto mai per amore. Come vorrei averti vicina, sentir la tua voce ancor di bambina, e stare con te mentre fuori piove, dividere con te tutte le mie gioie. Piccolo fiore, dove vai? Perché vai in giro per il mondo? Se ti fermassi solo un momento, ti accorgeresti che c'è qualcuno. Qualcuno che ti vuole amare e non ha paura dell'amore. Come tu sai, si può soffrire e qualche volta si può anche morire, come io per te. Occhi tuoi non sol colore, so solo che mi fanno impazzire quando li guardo, mi chiedo se sarai più bella se verrai con me. Piccolo fiore, dove vai? Perché vai in giro per il mondo? Se ti fermassi solo un momento, ti accorgeresti che c'è qualcuno. Qualcuno che ti vuole amare e non ha paura dell'amore. Come tu sai, si può soffrire e qualche volta si può anche morire, come io per te. Come io per te. Come io per te. Come io.